Gnome e Tron alla fine della Prima Guerra Mondiale. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, Gnome e Tron si trova in una situazione preoccupante. Innanzitutto, lo Stato dispone di pochi mezzi per rilanciare le proprie forze aeree e quindi per effettuare nuovi ordini agli industriali. Per alimentare le sue fabbriche, Gnome e Tron si diversifica producendo beni sostitutivi, come macchine da cucire e motociclette, di cui potrete vedere una bella collezione più avanti. Un'altra difficoltà per Gnome e Tron è che il futuro dei motori rotativi è tecnicamente compromesso. Come si può vedere, i motori esposti qui hanno un numero maggiore di cilindri. Ciò consente di aumentare la potenza, ma implica anche un aumento della massa rotante da mettere in movimento. Gli ingegneri si scontrano con l'effetto giroscopico, che limita la manovrabilità dell'aereo. Questo tipo di motore non può quindi superare i 250 cavalli. Per saperne di più sull'effetto giroscopico, consultare il dimostratore.